accarezzarti, sugli occhi timidi baciarti, ma non mi sento di giurarti se tu mi chiedi eterno amor. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare. E se rimango a te vicino, non lusingarti ma non disperar, no. Amami se vuoi, tienimi se puoi, io sono l'amor che svanisce, ma dei baci miei non fidarti mai, io sono l'amor che ferisce. E quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: amami se vuoi, tienimi se vuoi, perché io son così. Mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò.